Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari radioascoltatori. Oggi tratteremo un argomento che è molto, diciamo, dibattuto, molto discusso, ma anche molto, molto amato, che è quello del chilometro zero. Ebbene, diciamo, avremo due momenti. Un momento in cui parleremo della ristorazione a chilometro zero, delle cucine a chilometro zero, se questo sia possibile. E poi parleremo anche invece del discorso del consumo, appunto dell'acquisto dei prodotti agroalimentari. E andremo a vedere appunto come la pensano molti esperti e qual è la realtà oggi del mercato. Ebbene, cominciamo dalla ristorazione. Inizio dalla ristorazione, e chi se non a uno che ha 35 anni di attività in giro per l'Italia ad assaggiare, a giudicare e a verificare cosa sta succedendo nelle cucine italiane, se non Fausto Righi, direttore delle guide Michelin. Buongiorno Fausto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Fausto, allora ti chiedo, tu appunto sarai andato anche in moltissimi locali in cui, diciamo, professano cucina a chilometro zero. Ecco, io ti chiedo, secondo te si può fare grande cucina a chilometro zero, oppure si può fare una cucina molto limitata alla realtà territoriale e magari con altri vantaggi dal punto di vista ambientale, forse? Ma si può fare una cucina a chilometro zero in maniera parziale, non totale, perché nella scelta di un ristorante ci sono molti elementi, quindi non è inevitabile che qualcosa non possa essere territoriale, e quindi si va molto al di fuori di questo pensiero. Noi dobbiamo ritornare purtroppo alle origini dell'epoca della ristorazione, se vogliamo trovare il chilometro zero. Gli anni 60 ancora si poteva mangiare il chilometro zero, oggi sempre meno, perché non ci sono più i produttori. Prendiamo anche gli insaccati, i maiali arrivano non so dove. Una volta c'era il contadino che allevava 3-4 maiali, e poi i salami, i cotechini e quant'altro erano territoriali. Oggi diventa sempre più difficile, quindi parlare anche di chilometro zero è molto complesso. Ecco, io volevo, ho fatto una ricerca e devo dire che è incredibile quanti ristoranti ormai si chiamano con chilometro zero. L'osteria del chilometro zero, menù a chilometro zero, addirittura ci sono delle associazioni di chilometro zero. La regione Veneto ha varato un regolamento appunto sui ristoranti chilometro zero. Mi sono andato a vedere gli aderenti, forse è un elenco della prima ora, ma devo dire che sono rimasto un po' così colpito, perché in realtà c'erano molti negozi e pochi ristoranti. Alcuni ristoranti ho chiamato e dall'altra parte mi dicevano che assolutamente lo avevano fatto, si erano iscritti, però non lo facevano più. Quindi diciamo che c'è quello che mi dice un appassionato, appunto, che scrive sul mio sito, il gastronauta, che dice: il chilometro zero è un'interessante prospettiva che cambia gli attuali modelli di distribuzione in campo agroalimentare. I vantaggi sono innegabili per i produttori, per i consumatori e per l'ambiente. Tuttavia il rischio che diventi una moda e sia utilizzato furbescamente è concreto. Ecco, questo secondo me è un po' la sintesi di tutto. Sentiamo Aldo dalla provincia di Padova, un radioascoltatore, cosa ci dice? Buongiorno Davide, io sono Aldo, ho un ristorante a 2 Carrare e faccio naturalmente la mia cucina basata solo sul pesce. Sì. Adesso mi sembra che praticamente il chilometro zero sia un po' abusato un po' da tutti. Il vero chilometro zero lo sceglie il ristoratore, nel senso che un ristoratore che si va a fare la spesa la mattina, e sono sempre più rari, perché io al mercato del pesce ci vado tutte le mattine, e vedo molti fax che arrivano in pescheria, molte telefonate, però la presenza del ristoratore è fondamentale per acquistare il prodotto di Chioggia o di Marano Lagunare o di San Benedetto del Tronto. Questo è il vero chilometro zero, perché se io prendo al mercato le moecche, i calamaretti piccoli, gli scampetti giusti, la vongola, e non prendo roba di importazione, questo è il chilometro zero. Adesso si fa un grande abuso. Per esempio, adesso c'è un po' di crisi, indubbiamente, perché questo comporta una spesa, un esborso di denaro maggiore, di conseguenza i conti lievitano per questi prodotti che sono freschi e costano di più. Bene, grazie Aldo della sua testimonianza. Ora andiamo a Mestre e andiamo dall'osteria della Cuccagna, che, senza blandire nel titolo del ristorante, propone una cucina a chilometro zero. Buongiorno Stefania Dal Corso. Buongiorno a voi. Stefania, è davvero possibile fare cucina a chilometro zero? Ma io ho ascoltato il mio collega, devo dire che sono d'accordo. Ovviamente non è possibile fare tutto il menù a chilometri zero, però se tu nel tuo menù garantisci il prodotto, specifichi dove prendi il prodotto, l'azienda che ti fornisce, io credo che comunque a livello del cliente sia credibile, perché comunque sei tu che devi convincere il cliente di questo. Senta Stefania, i clienti che vengono da lei, secondo, appunto, secondo il suo pensiero, sono attratti da quando lei dichiara appunto il mio menù, la mia cucina è in parte, come dice lei, chilometro zero? Sì, sì, assolutamente sì, anche perché, ripeto, nei nostri menù addirittura scriviamo la storia del piatto, cioè un po' andiamo a vedere da come nasce, il periodo che è nato questo tipo di piatto, per cui si chiacchiera anche con il cliente e poi si cita dove vengono presi i prodotti, per cui le aziende tutto, e comunque viene tutto scritto, e io vedo che anche i clienti se ne vanno a prendere proprio nelle aziende dove ci forniamo noi i certo. prodotti. Quindi sono, diciamo, è un modo anche per pubblicizzare il prodotto vicino. Grazie Stefania Dal Corso. Torno a Fausto Righi. Fausto, io credo che sia difficile prendere le stelle facendo una cucina a chilometro zero. Beh sì, vorrei averne di ristoranti che riescono ancora a fare dei piatti che possono essere delle tradizioni rivisitate, perché è la tradizione che poi porta molto al chilometro zero, però è una questione di ricerca, è una questione economica, è una questione di tempo per andare a cercare i piccoli produttori, per avere quella materia prima che magari è del territorio, che possa portare a fare comunque qualità esaltando un po' il territorio. Questo si può anche fare, ma è difficile. Sono i costi economici che forse oggi i ristoratori non riescono a fare. Bene. Forse ancora questo discorso oggi dei ristoranti stellati che a mezzogiorno fanno magari un menù più del territorio per contenere i costi, materie prime più semplici, perché poi si paga ovviamente delle cifre decisamente più contenute, ecco, solo così si può esaltare ancora il territorio, il chilometro zero. Bene, grazie a Fausto Righi, grazie, a presto Fausto. Saluto, bene. Ciao. Sentiamo Silvia velocemente da Torino, buongiorno Silvia. Buongiorno, senta, io sono una frequentatrice delle iniziative di Campagna Amica, quindi acquisto prodotti cosiddetti a chilometro zero. Quello che mi lascia sempre un po' sconcertata è il fatto che i prezzi siano decisamente superiori rispetto a quelli che si possono trovare nei cosiddetti mercati rionali. E chilometro zero vorrebbe dire minori costi di trasporto, e in realtà poi i prezzi, ecco, sono superiori rispetto a quelli dei mercati tradizionali. Guardi Silvia, rivolgeremo questa domanda proprio al responsabile della Coldiretti che avremo con noi fra poco. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di chilometro zero. Devo dire che ho già ricevuto moltissimi sms, che ovviamente ce ne sono alcuni che parlano in maniera molto positiva, altri meno, ma poi man mano che andremo avanti li vedremo. Ce n'è uno che credo sarà abbastanza interessante da discutere poi con i nostri ospiti. Chilometro zero, per essere coerenti smettiamo di esportare i nostri prodotti nel mondo. Ecco, questo secondo me sarà un interrogativo interessante, come un altro: mercato contadino a chilometro zero. In un paese del Piemonte ho trovato le arance, e poi ancora tanti altri. Poi dalle mie ci sono agricoltori che vendono i loro prodotti e a me sta bene, ma altri hanno queste cassette di legno, ma se dopo mi vende banane e ananas mi cade tutto. Eppure puntini Giulio da Treviso. Bene, come abbiamo ascoltato, appunto c'è, diciamo, questo grande tema prima che abbiamo discusso della cucina, se si può fare una cucina a chilometro zero, e abbiamo sentito appunto ci sono difficoltà, però con grossi costi si potrebbe anche riuscire a fare. Bene, abbiamo con noi, e ora entreremo un po' nell'argomento più che altro sulla commercializzazione dell'agroalimentare, il presidente della Concofagricoltura, Mario Guidi. Buongiorno Guidi. Buongiorno a voi. Senta Guidi, la Coldiretti, io non è che voglia fare una contrapposizione, diciamo si è molto impegnata dal punto di vista dei farmers market, quelli così chiamati. La Confagricoltura che posizione ha su questo, cioè sul discorso del chilometro zero e sulla distribuzione del prodotto agroalimentare? Beh, certamente non disconosciamo il fatto che la distribuzione di prossimità, ovvero il chilometro zero sia un elemento da perseguire, è anche un elemento di successo se vogliamo, ma le dimensioni che questo modello di distribuzione può raggiungere sono infinitesimamente piccole rispetto alla dimensione dell'agricoltura nazionale, che ha bisogno di grandi spazi, soprattutto se vogliamo conquistare mercati più ricchi che possono pagare i nostri prodotti in maniera adeguata. Proprio l'altro giorno il dato più confortante di tutto è che la crescita dell'export agricolo. Quindi cioè, la crescita dell'export significa che il prodotto va oltre l'Italia, quindi in un certo senso, come posso dire, è il contrario del chilometro 10.000. Senta Guidi, voi non avete, cioè diciamo una come posso dire, avete tentato un discorso di distribuzione dei prodotti vostri della Confagricoltura, cioè dei vostri associati, a differenza appunto di Campagna Amica della Coldiretti. Questo è proprio un motivo anche di base, cioè di una, come posso dire, indisponibilità dei vostri associati oppure di una difficoltà organizzativa? No, di una scelta fino ad oggi di svolgere la funzione sindacale e di accompagno delle imprese, svolgendole in maniera tale da creare le migliori condizioni affinché l'impresa possa raffrontarsi col mercato. Abbiamo poi in realtà episodi molto diffusi sul territorio nazionale per cui le nostre organizzazioni di base si sono interessate della vendita dei prodotti dei propri associati, così come organizziamo incontri con i buyer internazionali per collocare i prodotti dei nostri associati sul mercato internazionale, appunto. Ne è un esempio il Vinitaly, ma tante altre opportunità vengono messe e verranno messe in campo. Bene, un approccio diverso, ecco. Rimanga con noi Guidi, sentiamo un radioascoltatore, Marcello da Pavia. Buongiorno Marcello. Sì, Paolini, buongiorno e complimenti. Io volevo dire una cosa su questi mercatini della Campagna Amica. Sui prezzi io credo che sia anche corretto che alcuni prodotti costino un pochettino di più, perché c'è più lavoro, c'è più professionalità, c'è più qualità. Invece quello che non è ammissibile secondo me, e sarebbe facile da controllare, che alcuni stand di questi mercatini poi hanno prodotti che sono chiaramente non a chilometro zero, ma in maniera molto evidente. Io credo che Coldiretti qui dovrebbe fare una selezione molto più precisa. Bene, poi sentiremo appunto. Grazie. Il responsabile della Coldiretti. Abbiamo con noi anche il presidente di Slow Food Italia, Roberto Bordese. Buongiorno Roberto. Buongiorno Davide. Buongiorno. Qual è la posizione vostra sul discorso chilometro zero? Ma intanto noi non usiamo il termine chilometro zero, preferiamo parlare di economia di scala locale, perché come ho sentito nel primo intervento che hai detto, è più una tendenza, un modo di riflettere, di ragionare che dobbiamo assumere e non un'etichetta che ci dobbiamo attaccare sul menù o sul barattolo di un prodotto, perché altrimenti diventa solo marketing, comunicazione e perde tutto il vero valore. La riflessione che noi vogliamo fare è, in questo momento in particolare di crisi, anche se noi già la facevamo prima questa riflessione, è giusto e corretto provare a ricostruire i nostri modelli economici, a partire ovviamente dal cibo, su scala locale. Io credo che la ristorazione chilometro zero, intesa proprio 100% chilometro zero, non sia mai esistita. Certo. Tu pensa che il piatto della tradizione piemontese, la bagna cauda, è fatta con le acciughe, che evidentemente in Piemonte non ci sono, l'olio extravergine che l'abbiamo sempre prodotto in minime quantità e non era buono, lo usavamo per le lampade in chiesa, quindi è evidente che l'economia è fatta di scambi. Dopodiché quando noi mangiamo tutto l'anno in un paese che produce pomodori, mangiamo i pomodori tutto l'anno anche fuori di stagione e che arrivano da migliaia di chilometri di distanza e non mangiamo quelli prodotti sotto casa nostra, ecco che allora forse è saltato qualche meccanismo e usare anche provocazioni forti, come dire mangiamo a chilometro zero, serve perché la gente torni a ragionare, torni a riflettere e magari torni indietro su qualche passo quando siamo andati troppo fuori strada. Guidi, mi sembra che questa posizione di Slow Food sia molto interessante. Certamente, distinguiamo l'aspetto comunicazione per affermare l'importanza dell'agricoltura, del cibo, della sana alimentazione, da quelle che sono però le politiche che devono essere messe in campo per lo sviluppo dell'agricoltura. Io non vorrei mai che queste due questioni vengano messe in conflitto e in contrasto, perché l'opportunità che hanno le nostre aziende di utilizzare prodotti, di commercializzarli su un piano internazionale per ottenere la miglior soddisfazione reddito, contrattuale è un elemento per noi di base, fondamentale. Cioè, non possiamo vivere di ideali e di tendenze, ecco. Però io riconosco perfettamente che anche il principio di Slow Food ha affermato un modello di vita che è vicino all'utilizzo di buoni alimenti, ma nel momento in cui noi vogliamo esportare, non possiamo pensare che gli altri paesi non vogliono fare lo stesso con i nostri, altrimenti la chiusura delle barriere genera autarchia, certo, che non è possibile. Certo. Bene, e sentiamo Francesco dalla provincia di Vibo Valentia, un radioascoltatore. Buongiorno Francesco. Buongiorno voi di Radio 24. Io sono Francesco, c'è una cooperativa che si chiama Mare Mare. Noi li facciamo solamente per il chilometro zero. Innanzitutto bisogna precisare che tu devi prendere il prodotto stagionale e quindi ti rendi conto che è il prodotto nostro. Le faccio un esempio, il signore prima che parlava dei calamaretti. I calamaretti del sud-est asiatico che li troviamo tutti l'anno e vengono prodotti con ricette locali, non ha nulla di chilometro zero. Beh, certo, Francesco, diciamo che il pesce credo che sia proprio il settore, come posso dire, più pericoloso di questi tempi con tutto quello che arriva dall'estero. Però lei mi ammette una cosa che tempo fa io ho sostenuto da questo microfono e una pescheria mi ha detto no, non esiste. Esiste la stagionalità del pesce, come, vero Francesco? Ma io per esempio l'unica cosa che io non mi trovo d'accordo con Slow Food, con Slow Fish, quando parlano di allevamento biologico marino. A questo è un altro discorso, che non può esistere l'allevamento biologico marino. Le spiego in sintesi, ho fatto il laudo, ma non ho fatto lo scientifico, il classico, bio significa vita. Nel momento in cui, quando gli viene dato pesce congelato, messo in farina, non esiste il bio. Però ritornando al chilometro zero, perlomeno al miglio zero, le spiego una cosa, il periodo del polpo, noi sappiamo quanto è, no? Sì. Quando io vado in pieno gennaio, in pieno febbraio, in pieno freddo, in un ristorante che mi danno i polpi in cassola, ma questi polpi da dove vengono? Beh sì, certo, e vabbè, lì si tratta anche di serietà e professionalità del cuoco e del ristorante. Grazie Francesco. Roberto, a te la parola. Pronto? Sì. Ci sono. Sul tema del pesce si potrebbe fare un'altra puntata intera. Certo, sono tanti cose. Sono d'accordo. La questione dell'allevamento biologico marino, non è che noi siamo sostenitori degli allevamenti. Abbiamo presentato in alcune situazioni dei metodi di allevamento che possono apparire sostenibili. Intanto ragioniamo che, per esempio, tutti i frutti di mare, le ostriche, le cozze vengono sostanzialmente allevate e sono sistemi di allevamento che possiamo definire sostenibili. Sui pesci sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore che è un grosso problema. Il ragionamento, per tornare ai discorsi che facevamo, i calamaretti che arrivano dall'Asia, eccetera, nella ristorazione secondo me chilometro zero, non chilometro zero, è ora che venga presentato nel menù l'elenco dei fornitori, come c'è nella carta dei vini il nome del produttore, l'etichetta da dove viene. Allora, la questione poi non è se il mio pepe arriva dalla Malesia o da un'altra parte, la questione è da dove arriva al mio cliente, dove ho preso i miei, certo, prodotti. Oggi certamente c'è più voglia dei clienti di conoscere cucine che quando possono vanno a cercare il meglio sul proprio territorio, perché è un elemento di valore aggiunto. Certo. Il mio territorio lo racconto meglio se oltre alla ricetta ho anche trovato gli ingredienti, almeno quelli possibili, sul territorio. Ugualmente nei mercati, noi abbiamo 20 mercati della terra in giro per l'Italia come Slow Food. Noi abbiamo fatto una scelta molto precisa. Il limite di distanza è di 40 km dal luogo dove si svolge il mercato. I produttori devono portare il 100% di loro prodotto. La legge nazionale sui mercati contadini dice che ci deve essere la prevalenza, quindi è sufficiente che ci sia il 51% di loro prodotto, il 49% possono averlo acquistato da altri produttori. Dopodiché ovviamente abbiamo degli ospiti. In Piemonte, nel periodo invernale, ogni tanto invitiamo bravi produttori della Sicilia o della Calabria che vengono con le loro arance, perché in Piemonte non le abbiamo. Allora non è che dobbiamo smettere di mangiare le arance in Piemonte, però di nuovo andiamo a sceglierci i produttori che ci piacciono, che sanno darci un buon prodotto, e li invitiamo. E poi sarà evidente a tutti, in mezzo a un mercato di tutti i produttori che arrivano da 40 km, che ci sono un paio di ospiti scelti anche con una certa ragione. Bene, grazie a Roberto Burtese, grazie a Mario Guidi, e io purtroppo devo chiedere a Enrico Crippa, che lo richiameremo fra poco, perché ora devo passare la linea alla regia, e poi volevo sentire appunto del Neo 3 Stelle appunto alcuni pensieri. Sentiamo comunque Elvio da Parma. Buongiorno Elvio. Ciao Davide. Veloce. Sono... Niente, io sono assolutamente contrario al chilometro zero, perché nella realtà poi spesso i produttori spediscono i migliori prodotti proprio lontano da dove li producono. Questo forse perché il mercato locale non riesce a pagare il giusto prezzo agli stessi produttori, ecco. Bene, grazie. Franco da Grosseto. Pronto, buongiorno, dottor Paolini. Prego. Buon lavoro a tutto il suo staff. Sì, velocissimo. Noi, la nostra esperienza di Maremma è un'esperienza consolidata del chilometro zero, che adesso è molto diffusa con il mercato di Campagna Amica, eccetera, ma non solo. Tra l'altro posso dire che in famiglia nostra la spesa sul fresco, su non solo verdura, ortaggi, eccetera, è per 12 mesi all'anno sul chilometro zero, perché andiamo al di là dei mercatini a cercare i produttori. Il vino, per esempio, lo compriamo da produttori che fanno il chilometro zero. Bene, Franco, la devo interrompere, devo passare la linea alla regia. Comunque abbiamo capito che lei è uno dei pochi fortunati che può fare questo, non tutti possono farlo, di andarselo a cercare. Comunque è sicuramente un'ottima soluzione, sia economica che dal punto di vista qualitativo. Il gastronauta. Eccoci di nuovo assieme, cari gastronauti. Stiamo parlando di ristorazione e alimenti a chilometro zero, cioè quelli che vengono prodotti e consumati nello stesso territorio. E allora ci stiamo chiedendo, ma questa dicitura che valore ha? Si tratta di uno slogan pubblicitario accattivante o di un sistema che funziona davvero accorciando le distanze della filiera? Ricominciamo allora il giro dei nostri ospiti. Adesso abbiamo in linea con noi Enrico Crippa, chef tristellato di Piazza del Duomo ad Alma. Buongiorno Enrico. Buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senti, grazie. Enrico, sei d'accordo con qualcuno ha detto, dici, i ristoranti dovrebbero mettere il nome e cognome dei loro fornitori nei menù? Ma sono d'accordo sì e anche no, se vuoi. È bello anche che le persone che lavorano in ristorante, soprattutto chi lavora in sala, comunichi questa cosa direttamente all'ospite, al cliente, per anche ritornare a cercare questo rapporto un po' tra un rapporto di calore appunto tra il cliente e chi è in sala e fa questo lavoro con passione. È importante che ci sia un rapporto forte tra il cuoco, il ristorante e il fornitore stesso, che ci sia fiducia, che ci sia proprio la stessa intesa, lo stesso sforzo in un'unica direzione, ecco. Senti, tu sei brianzolo e diciamo che hai fatto tutta la tua escalation, diciamo, gastronomica ultimamente in un territorio molto ricco di prodotti come le langhe. Ecco, il discorso tuo di una cucina, la tua cucina attinge molto al prodotto a chilometro zero comunque. Sì, ma probabilmente, cioè, noi siamo molto più fortunati di altri colleghi o di altri cuochi che lavorano in regioni diverse. Da noi il chilometro zero, se vogliamo, è tra virgolette più facile, perché il Piemonte è una terra ricchissima dalle carni e formaggi, varie tipologie di carni, e poi noi siamo ad Alba da 7 anni, da 5 anni abbiamo voluto avere noi un orto per poter procurarci la verdura, ma l'abbiamo voluto non tanto per avere un orto a chilometro zero, anche perché comunque qua non si fa assolutamente fatica, seguendo il ritmo delle stagioni, a usare i prodotti della terra, del territorio. L'abbiamo creato l'orto non appunto per una moda o per un dire che abbiamo noi il nostro orto. Io ho voluto fortemente questo orto perché volevo una diversità di prodotto. Anche abbiamo nel nostro orto delle verdure che non sono tipiche del Piemonte o che non sono tipiche addirittura dell'Italia, però avendo uno spazio per poterle produrre e avendo una persona che si occupa di questa struttura, di questo orto che è di 3 ettari, che lavora tutti i giorni là dentro, ci ha permesso di avere molta soddisfazione nell'indirizzo vegetale, anche perché io ho notato molto in questi anni di carriera e di apprendistato in giro per il mondo che si mangia sempre più verdura nelle trattorie, ma sempre meno nei ristoranti, diciamo, importanti, e quindi il nostro successo forse è stato anche dato dal voler fortemente ritornare a proporre un vegetale abbinato comunque sempre a carne o pesce. Bene, grazie a Enrico Crippa. Ora abbiamo con noi Stefano Masini, responsabile consumi Coldiretti. A Masini ci sarebbero tante domande da fare che sono emergono dagli sms e dai nostri radioascoltatori, però io ne voglio fare una un po' particolare di un radioascoltatore che ha scritto. Dice: se applicassimo tutti il chilometro zero sarebbe la fine dell'economia di mercato e torneremo all'autarchia. Stefano Masini, lei cosa ne pensa? Anzitutto buongiorno, cosa ne pensa Coldiretti? È una lettura solo parziale del chilometro zero inteso in senso geografico. In realtà il chilometro zero è la metafora della verità del cibo. Noi riteniamo che occorre presentare sul mercato un cibo che abbia una relazione diretta con un luogo, con i saperi, con le stagioni. Poi questo prodotto chiaramente può anche essere trasportato per ragioni di diffusione di un messaggio enogastronomico. Terra madre, ad esempio, o i mercati di Campagna Amica, la rete dei mercati di Campagna Amica sull'intero territorio presentano prodotti delle varie regioni, ma assecondando un principio di verità. È chiaro che oggi le filiere lunghe, la grande distribuzione organizzata presenta sul mercato prodotti che nascondono la loro identità. Ecco che da questo punto di vista invece il chilometro zero esprime un'agricoltura di comunità, un'agricoltura legata a un territorio ed è una narrazione, non è semplicemente un'etichetta che contiene alcune diciture obbligatorie. È l'agricoltore che presenta quel prodotto, che discute quel prodotto con il consumatore. Non è che passiamo vicino al registratore di cassa e il nastro legge il codice barre. È l'agricoltore che racconta quel prodotto, lo può raccontare anche all'estremo capo del mondo, perché altrimenti sarebbe vero, non riusciremo a esportare i nostri straordinari vini o i nostri meravigliosi oli e tutto l'export agroalimentare italiano, quello vero però, ecco, altrimenti il rischio è che noi presentiamo informazioni opache, prive di verità sull'origine e sulla stagionalità. Poi certo, il chilometro zero, diciamo, autentico è quello legato a un luogo, perché il consumo nel luogo consente anche una conoscenza storica, culturale, identitaria. Spesso viaggiamo da turisti e immergendoci nella nostra straordinaria terra così diversa, ammiriamo monumenti, leggiamo pagine di storia e degustiamo vini o prodotti. Grazie, grazie a Stefano Masini. Ora vorrei sentire un imprenditore del settore formaggi caseario, che addirittura è andato a produrre all'estero, appunto per la grande domanda che c'è in giro per il mondo del prodotto italiano, quindi diciamo ha sovvertito un po' al di là del chilometro zero, e l'ho sentito fare un'osservazione un giorno a un convegno, secondo me abbastanza interessante. Buongiorno Roberto Brazzali. Buongiorno Davide. Buongiorno. Lei, l'ho sentito in un convegno, ha detto: dice, chilometro zero è, non è molto reale, perché chi produce a chilometro zero ricorre a dei prodotti per produrre che non sono a chilometro zero, quindi c'è un controsenso. È così? L'ho interpretato bene il suo pensiero su questo? Beh, dico più precisamente: chilometro zero è una straordinaria idea commerciale che tra l'altro è assolutamente condivisibile e sostenibile quando significa valorizzare i prodotti del territorio, la storia, essere fedeli alle proprie radici, alle proprie tradizioni, alla regionalità e così via. Per cui è una bellissima idea. Da qui però trarne delle indicazioni o delle garanzie, o comunque supporre che ci siano altre caratteristiche, è assolutamente indebito. Per esempio il fatto che il prodotto finito, il prodotto finale, quello edibile, sia venduto da una persona, che è da un'impresa che è a chilometri zero dal consumatore, non significa necessariamente che sia di qualità, perché il chilometri zero non garantisce la qualità come possono garantire invece altre filiere DOP o altre filiere garantite, e non garantisce l'efficienza energetica, perché nessuno sa se quell'azienda è efficiente energeticamente. Il semplice fatto che il prodotto finito non faccia molta strada, questo non significa che i prodotti invece, gli input, cioè i prodotti alimentari usati per il bestiame o per l'agricoltura, non ne abbiano fatta tantissima di strada. Per esempio può essere la paglia che arriva dalla Puglia, l'erba medica disidratata che arriva dalla Spagna o altre cose che immagina. Tra l'altro il fattore è moltiplicativo, perché per ogni prodotto, per esempio di formaggio, ci vogliono almeno 10 litri di latte e 20 kg di input di prodotti alimentari per il bestiame. Inoltre non significa garantire la salubrità, perché chi lo dice che il prodotto a chilometri zero è necessariamente salubre? In questi tempi, proprio in queste settimane, ci troviamo di fronte alla grossa crisi dell'inquinamento da aflatossine del mais della pianura padana, che viene corretto, rettificato, mescolandolo col mais che proviene dall'estero, anche dal Sud America, per cui capisce che questi aspetti, cioè trarre queste convinzioni è assolutamente, o suggerire questi aspetti al prodotto è, direi, che è fuorviante, per non dire addirittura in certi casi rischia di essere ingannevole. In realtà anche noi abbiamo ricorso per le nostre filiere a delle certificazioni, esponendo con assoluta precisione i dati, i numeri precisi, in modo tale da fornire al consumatore una serie di elementi per avere un'idea molto chiara e precisa. Non è così vero che nelle filiere cosiddette lunghe, che poi questo è un termine tutto da discutere anche questo, che nel commercio tradizionale, nell'attività tradizionale, si nasconda l'origine del prodotto, si nasconda le sue caratteristiche. Che il sistema di etichettatura e il sistema dei controlli igienico-sanitari è talmente efficiente, talmente valido oggi, che i prodotti offrono tutti una grande garanzia, una grande trasparenza. Grazie a Roberto Brazzale, la ringrazio. Sentiamo Massimo dalla provincia di Verona. Buongiorno Massimo. Buongiorno a lei, complimenti per la radiotrasmissione. Mi dica. No, io sono il presidente dell'ente Fiera di La Scala, dove sì, nel mese di settembre-ottobre facciamo la Fiera del Riso, e viene fatta durante il periodo della raccolta del riso, dove da noi viene prodotto il riso Vialone Nano IGP, e facciamo questa festa con prodotti della filiera corta, con gli allevamenti del macinato di Isola della Scala e con il riso prodotto, cucinato e allevato a Isola della Scala. Questo per noi è un motivo di orgoglio, certo. Quindi avere 600.000 visitatori che in 3 settimane arrivano a una mostra enogastronomica italiana della filiera con un prodotto certificato che è ormai conosciuto in tutto il mondo, per noi è un motivo di grandissimo orgoglio. Bene, anche orgoglio per l'Italia di un fatto di questo genere. Sentiamo Amelio dalla provincia di Lucca. Buongiorno Amelio, un radioascoltatore. Buongiorno, senta, io faccio il cuoco. Comunque la domanda è questa: siamo veramente sicuri che il chilometro zero sia sano, o è una schifezza a chilometro zero? Beh, insomma, domanda. Sì, no, più che meglio subito. Io direi schifezza, insomma, una parola un po' forte, meglio. Ma io mi permetto di dirlo, perché l'ora di finire, chiamiamo le cose come del nome che hanno, io lo so che è forte, ma è una realtà, visto che faccio questo lavoro da 40 anni, io che penso che il chilometro zero è importante, però bisogna anche vedere come, visto che esiste un mercato, certo, che è un mercato che non è la domanda, è solo un mercato, perciò diciamo che bisogna stare molto attenti. Sì, è meglio, io sono d'accordo con lei, c'è cucina buona e cucina pessima, così, e sicuramente anche sul chilometro zero è evidente che ci sono gli estremi, però non si può, secondo me, generalizzare. Comunque grazie del suo intervento, visto che anche lei è cuoco, quindi se ne intende. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di chilometro zero. Bene, sentiamo Michele da Firenze, un radioascoltatore. Buongiorno Michele. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Velocissimamente volevo dire questo. Sono anch'io d'accordo che non sono indice spesso di qualità i mercati, la filiera corta, perché guardiamo un po' all'esempio della pianura padana del latte che stanno avendo in questo periodo. Qualche amico che ho in zona lì del Bresciano, del Cremonese, mi dice che quel latte sta andando, viene buttato perché non ha più indice di qualità. E allora mi chiedo, io che acquisto il grana padano in zona, quando mi trovo per lavoro in zona Cremona, ma il futuro grana padano con che latte verrà prodotto? Quindi volevo solo sostenere questo. Interessante, diciamo che questo è un interrogativo molto, molto sentito dai radioascoltatori, perché ci sono tanti sms appunto in questa direzione. Ma ora abbiamo con noi uno scrittore, giornalista, ma anche un agronomo, quindi un personaggio tanto che fa appunto della sua ironia, della sua originalità, credo un po', come posso dire, un'arte. Buongiorno Antonio Pascali. Buongiorno a voi, come va? Bene Antonio, so che sei in treno, quindi potrebbe anche cadere la linea, non preoccuparti. Volevo solo chiederti a te una pennellata su chilometro zero. Ma a me sembra uno slogan efficace, credo che poi bisogna anche fare la pace tra chilometro zero e chilometro 10.000, nel senso che ci possono essere prodotti di nicchia che vengono acquistati con una filiera più corta. Questo non significa che tutta l'economia agroalimentare debba basarsi sul chilometro zero. Faccio un esempio, benissimo che io conosca un agricoltore che magari coltiva buoni finocchi e preferisco andargli a prendere lì in azienda la domenica, mi faccio una passeggiata con i miei figli e vado a prendere il finocchio lì in azienda, però è anche vero che io abito a Roma, è una grandissima città e non sempre ho questa possibilità, cioè non sempre ho tempo a disposizione per fare i miei chilometri e andare in azienda a prelevare gli ortaggi. Ecco, credo che possano esistere entrambe le possibilità. È sbagliato, credo, fissarsi, ossessionarsi sulla filiera. Bene, rimane ancora con noi, vediamo se resiste la linea. Sentiamo Vittorio dalla provincia di Reggio Emilia, un radioascoltatore. Buongiorno Vittorio. Sì, buongiorno. Guardi, io sono un produttore di uva e di vino anche in parte. Ecco, secondo me c'è un piccolo malinteso qua, cioè il chilometro zero serve essenzialmente per il prodotto fresco, cioè per quella frutta, quegli ortaggi che oramai sappiamo, sì, cosa nota, che nella grande distribuzione o comunque in generale vengono raccolti e poi frigo conservati, perché così vuole il mercato, così vuole il prezzo più basso possibile, e quindi poi vengono venduti di mano in mano, tirati fuori dal frigo e via dicendo. Viceversa è molto diverso quando tu la mela, la pera, l'insalata, il pomodoro, tutto quanto lo raccogli e dopo poche ore lo vendi. Ecco, quindi questo secondo me è il punto fondamentale del chilometro zero. Volevo poi aggiungere, se possibile, che molto spesso si fa un po' di confusione, cioè si unisce chilometro zero a filiera corta. Sono due cose completamente diverse, cioè la filiera corta è ad esempio il sottoscritto che col suo carico di lambrusco, fatto assolutamente con mezzi propri, uva propria, va a vendercelo, non so, nella zona di Roma. Allora io sono a filiera corta perché sono il produttore che vado direttamente là, sì, però lontano. Lei ha ragione che c'è abbastanza confusione, però questa confusione è stata abbastanza giocata su questo senso, non è poi così come lei ce la presenta ora. Molti presentano il chilometro zero non solo come prodotto fresco ma anche come prodotto lavorato, quindi bisogna mettere questo distinguo giustamente come dice lei, però bisogna anche capire come viene comunicato, che è un fatto abbastanza importante. Comunque grazie perché questo è stato abbastanza, come posso dire, chiarificatore. Sentiamo ora Marco Porcaro, che ha inventato un sistema che si chiama Cortilia e che è una spesa addirittura a casa a chilometro zero. Ci vuole spiegare brevemente, Porcaro, di cosa si tratta? Salve, buongiorno a tutti. Cortilia è una piattaforma, è un mercato agricolo online. Quello che abbiamo fatto con questo servizio è quello di portare gli agricoltori locali su internet e permettergli di vendere i loro prodotti direttamente, quindi sono loro che decidono i prezzi dei loro prodotti, la quantità e la tipologia di prodotti disponibili durante l'anno, e quello che facciamo noi è semplicemente raccogliere gli ordini dei consumatori e portargli la spesa tutte le settimane a casa con i nostri furgoncini agli orari e nelle giornate in cui ci chiedono di effettuare questa consegna. Bene, la ringrazio Porcaro perché questa è una novità, mi sembra molto, molto recente e interessante. Sentiamo Marco da Grosseto, un radioascoltatore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo solo aggiungere una cosa: se chilometro zero vuol dire sostenibilità, in particolare sul pesce bisogna stare molto attenti, perché in particolare il pesce a chilometri zero, se è pescato con pesca a strascico sotto costa illegale, rimane chilometro zero, però è assolutamente non sostenibile. È come andare a raccogliere le pere in un campo arando tutto, tagliando gli alberi solo per fare raccolto. Quindi vorrei che si fosse molto chiaro e che anche Slow Food da questo punto di vista facesse la sua parte. Il pesce preso con la pesca a strascico illegale sotto costa è assolutamente a chilometro zero, ma va assolutamente distinto dal pesce pescato dal piccolo pescatore con reti di posta. Bene. Che è l'unica pesca sostenibile. Grazie Marco, vediamo i nostri radioascoltatori con interessanti interventi. Sentiamo Gabriella dalla provincia d'Asti. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a voi. Io volevo parlare appunto del chilometro zero. Tantissimi produttori, io vendo soltanto, io sono produttore, vendo soltanto sui mercati, soltanto al consumatore, soltanto prodotto aziendale. Mi ritrovo sui mercati ai quali partecipo appunto dei colleghi a chilometro zero che vengono sicuramente magari da posti più vicini da quelli da cui provengo io. Mi domando, il chilometro zero intorno ad una città come Torino, il chilometro zero intorno ad una città come Milano, quali territori, quali terreni, quali risorse di raccolta possa fornire al consumatore a vendere un prodotto che qualitativamente sia a livello di commestibilità sostenibile. Bene. Grazie a Gabriella anche su questo. Devo dire che io mi spiace non poter far intervenire ancora Antonio Pascale, ma il tempo sta stringendo. Devo dire che ho ricevuto decine e decine di sms su due punti. Uno, molti sostengono che nei mercatini delle volte ci sono prezzi superiori a quelli che si trova diciamo nei negozi di ortofrutta, e questo può essere anche accettabile. C'è la libera concorrenza, quindi se danno una qualità superiore, perché non prezzi superiori. E l'altro punto, che però si trovano nei mercatini molti prodotti che non sono assolutamente a chilometro zero, ma Marini ha spiegato che appunto i mercatini, ci sono anche produttori che arrivano da altre regioni che entrano nei mercatini, ma sono diciamo fanno parte appunto di questa strategia di campagna amica di permettere anche a produttori di altre regioni di intervenire. Il terzo punto è sicuramente quello appunto, dicevo, dei falsi che girano appunto sui mercati, che non sono molte volte prodotti italiani. Questo è un po' il resumé di quello che ho fatto leggendo gli sms. Devo dire che sono venuti fuori degli spunti molto interessanti sia dai nostri ascoltatori sia dagli ospiti che sono intervenuti. Abbiamo parlato con Roberto Burdese, presidente Slow Food Italia, Fausto Arrighi, direttore delle guide Michelin, Marco Porcaro, fondatore di Cortiglia, Enrico Crippa, proprietario chef del ristorante Piazza del Duomo ad Alba, Stefania Dal Corso dell'Osteria della Cuccagna di Mestre, Stefano Masini, responsabile consumi di Coldiretti, Mario Guidi, presidente di Confagricoltura, Roberto Brazzale, responsabile del gruppo Brazzale, e Antonio Pascale, scrittore. E allora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata del Gastronauta. Un caro saluto dal vostro Davide Paolini.